Giovane sventurato, ecco vicino dei tuoi miseri dì l'ultimo istante. Tanta pietade, e mi punisca Giove se adombro il ver, tanta pietà mi fai che non oso mirarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, pur se nulla ti resta a desiar, or che la vita esponi libero il tuo devire, esserne io giuro fedele esecutor. Quanto ti piace, figlio, prescrivi e chiudi lumi in pace. Ben di padre, non di giudice, e quei detti sono l'unico dei miei voti. Riveder l'amico pria di spirare, già che il rimase in vita l'ultima grazia imploro d'abbracciarlo una volta. Pagherò, custodi Megacle a me. Signor, tu piangi, e quale eccessiva pietà l'alma ti incombra. Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce di costui, nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. La cagione ricerco e non la trovo. Che sarà giusti lei questo ch'io provo?